si yo viene lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Non ci prendiamo in giro, oggi esistere significa essere rappresentati, significa che il grande mondo della riproduzione del reale comunque si accorge di noi e lascia di noi qualche traccia, traccia che probabilmente sarà cancellata dal correre del tempo, ma sempre più forte e più indelebile di quello che può essere il nostro mesto e quotidiano vivere. Essere famosi oggi è al centro, è al culmine di tutte le aspirazioni. Oggi si vive per passare in un casting televisivo nell'età adolescenziale. Questi giorni mi è capitato di passare a Torino nel casting del Grande Fratello e vedere di fronte al piazzale del Lingotto centinaia di persone già trasformati, già vestiti, già impersonificavano il ruolo del caso umano per uscire dalla loro realtà quotidiana e entrare nella realtà dei possibili famosi. Oggi l'umanità si divide in aspiranti famosi, in persone che esistono nel mondo della rappresentazione mediatica e persone che aspirano ad entrare in quel mondo. È come degli specchi che si contrappongono. Io guardo me stesso come potrei essere quando la macchina mi riproduce nello splendore della luce, della celebrità. Beh, vi siete mai domandati come si faccia a diventare famosi? Beh, certo, probabilmente ci saranno tra voi maestri di celebrità, persone che sanno esattamente come collocarsi nel posto giusto, al momento giusto, entrare nell'inquadratura giusta, conoscere la persona giusta, cercare in qualche maniera di scambiare qualcosa che abbia un valore con il massimo valore possibile, che è quello della celebrità. Beh, è facile vedere passare per le strade che solchiamo ogni giorno alcune persone che sono quasi sormontate da un'aura misteriosa e fatale, che è quella di avere un volto riconoscibile o un nome già rimbalzato più volte sui giornali, alla radio, in televisione. E quanti vorremmo essere come loro? E qual è la differenza fra noi e loro? E cosa saremmo disposti a fare per entrare nella grande lista delle persone che si conoscono? Buonasera e benvenuti a Sipario. Iniziamo subito con Alessandro Del Piero. Facciamo come a scuola l'appello. Facchinetti Francesco. Presente. Nome. Anna Falchi. Luciana. Soprannome. Arturo. Lucy. Età. 29. 36. Misura. 93, 64, 93. Non saprei. Brandi Matilde. Eccomi. Tanti VIP ieri sera a Milano per festeggiare il compleanno di un volto noto della televisione. Anna Laura Ribas. Motivo per vedere questa intervista? La mia presenza. Per vedere cosa dice Sgarbi di me. Nome? Vittorio. Antonio. Età? 50. 52. Insinna Flavio! Presente. E adesso parliamo. Questo è il primo cerchione dei famosi, è la cialtroneria umana portata al rango di esistenza eccelsa. La televisione in questo è maestra, supportata e in qualche maniera appoggiata a un certo circolo di stampa che dà celebrità e evidenza ad alcuni personaggi che in realtà rappresentano l'humus su cui poi cresce la grande pianta della celebrità televisiva. E queste sono le persone che ormai di professione fanno le persone celebri. Non è che abbiano necessariamente un talento, esercitano delle eccellenze rispetto al resto dell'umanità, ma sono stati baciati la grande macchina televisiva. E questo è il primo circolo dei famosi, sono coloro che hanno un volto riconoscibile, coloro che la gente paga per vedere in discoteca, che la gente vorrebbe toccare come se fossero dei santi, dei reliqui viventi quando passano per strada. Poi esiste un circolo molto più esclusivo. Se guardi indietro, vedi Maria al suo esordio, cosa pensi? Beh, di Maria che guarda Maria avrei molta tenerezza. Se fossi un'altra che guarda Maria tanti anni fa, direi ammazza che fortuna. Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio fanno discutere e si definiscono due pantofole innamorati. Ci piace stare a casa, davanti al camino. Laura Pausini in gonna. In gonna, un po' strano, la Pausini non è mai in gonna, però quando si vanno a questi eventi della moda oso un po' mettere cose che normalmente non uso. Al suo sguardo languido, a quella faccia un po' così, da ragazzo di provincia, rimasto schietto e genuino, Tiziano Ferro non rinuncia mai. Quelli brutti diventano affascinanti, quelli medi diventano belli, quelli belli diventano bellissimi. Questo è il circolo di coloro che in realtà qualche talento lo hanno, o si esercitano nell'arte canora, sono attori, o sono a loro volta fabbriche di famosi come Maria De Filippi. Maria De Filippi ormai è uno starghetto, è una porta di passaggio, attraverso lei si passa per diventare famosi, per diventare celebri. E queste sono le persone che in realtà per sentirsi ancora più al centro dell'attenzione pubblica devono mostrare di avere dei lati umani e quindi si rivelano nel loro aspetto e nel loro ricordo di quando non erano persone famose. Poi esiste nell'ambito delle ambizioni umane, e vi prego di aggiungere a quello che sto io elencando anche la vostra piccola, modesta o smisurata ambizione di essere famosi, quali sono le parti della vostra vita che mettereste in gioco per essere famosi. Il numero, come al solito, è 800240024. Esiste, diciamo, una terza possibilità di comunque entrare nell'Olimpo delle persone degne di considerazione, è quello di essere elencati nel catalogo dei viventi di Giorgio Dell'Arti. Già è la seconda edizione di questo librone edito da Marsilio. Questa mattina abbiamo in studio Giorgio Dell'Arti. Giorgio, buongiorno. Buongiorno. Che è una voce anche conosciuta a questi microfoni, che ha fatto già varie rassegne stampa e vari programmi a Radio 24. Giorgio c'ha il grande compito, gravoso, impegnativo e pieno di responsabilità, di essere il Caronte che traghetta nel suo libro una serie di italiani che ambiranno, daranno l'anima. Questa mattina molti saranno lì in attesa spasmodica per sapere: ci sono anch'io in questa edizione, non ci sarò. Rispetto all'edizione di anno scorso ne ho aggiunti un pochino, perché quest'anno le persone che secondo te sono degne di essere ricordate in Italia sono 7.247, sono un po' tante, no? Beh, più allarghi questo universo e più l'universo è allargabile, perché c'è poi un alone intorno a questo mondo, che di fatto di persone che potrebbero esserci, potrebbero non esserci. Anche dentro i 7.247 c'è tutto un gruppo che c'è, ma poteva pure non esserci. Sono quelli nel purgatorio, diciamo. Una specie di limbo. La fortuna ha un ruolo nell'entrare in un mondo, in una stanza, senz'altro. E in questo caso la fortuna gioca, per esempio, anche sul fatto che qualcuno ce lo siamo dimenticato. Può capitare. Ma tu ti rendi conto quali drammi e quali problemi profondamente legati a crisi psichiatriche tu avrai creato in coloro che non si troveranno questa mattina nel catalogo dei viventi? Nemmeno tra 7.000 sono. Lo so, me ne rendo conto, non posso farci niente e il meglio è nemico del bene. Quindi rassegniamoci a qualche sbaglio, a qualche dimenticanza, a qualche buco, e cerchiamo di descrivere la contemporaneità, che è l'unico compito che ha un giornalista, in modo da dare testimonianza su quello che vede, su quello che capisce del suo tempo, attraverso lo strumento antichissimo delle biografie. Questi sono, in realtà sono, come tu sai, praticamente 7.247 romanzi o racconti, o racconti potenziali, o comunque nuclei narrativi. Sì, lo vedo, io parlo per la mia esperienza personale, mi ci sono trovato anch'io, mi fa piacere, non è per questo che sei qua stamattina, però visto che tu ci metti molto del tuo, non è una fredda e asettica biografia come potrebbe essere un elenco di persone, come potrebbe essere una navicella, ci metti un po' del tuo, di me, dici il mio escamotage per essere assunto in Rai, che mi ero inventato uno zio arcivescovo che non esisteva, citi come ultimo epico passaggio una mia malaugurata presenza nella giuria o nell'opinionificio dell'Isola dei Famosi. Insomma, ci metti un po' di qualcosa che fa sì che in fondo è un biglietto anche lievemente scomodo quello che bisogna pagare. Sì, ci sei, però dico io esattamente quello per cui decido che tu debba essere ricordato. Derita ha chiamato questo plasticità. Quando abbiamo fatto la conferenza stampa di presentazione del libro una ventina di giorni fa, lui ha detto, a differenza dei repertori dove ci sono appunto queste liste di nomi molto asettiche, ma qui abbiamo una plasticità. In effetti a me interessano gli esseri umani, io ho un grande amore per gli esseri umani, passo minuti e minuti fermo al ristorante o al bar a guardare le facce delle persone e mi ricordo certe facce che ho visto al ristorante o al bar, sono rimaste impresse come se fossero dei miei amici per anni, o perché gli ho sentito dire delle frasi o perché avevano un'espressione particolare. Si capisce tanto delle persone dai dettagli, tantissimo si capisce dai dettagli. I famosi fuori onda che Ricci manda, eccetera, le intercettazioni telefoniche che Berlusconi vorrebbe impedirci di leggere, sono dei pezzi di letteratura straordinari. Io soffrirei tantissimo se ci fosse impedito questo. Mi rendo conto del problema della privacy, ma considero la privacy un nemico. Considero il garante della privacy un avversario della libertà di espressione e della capacità di, della possibilità che tu hanno. Tu pensa a un nostro ospite fisso, invece lo chiamiamo spessissimo anche perché Pizzetti. Sì, Pizzetti, perché esiste questa profonda lussuria oggi in umanità. Da una parte fare come facevano le damigelle di buona famiglia dei tempi che furono, quando una persona le guardava con maggiore insistenza arrossivano e fuggivano, però si guardavano indietro ben sicure che qualcuno le seguisse. Oggi siamo circondati da mezzi di riproduzione del nostro privato, ne siamo orgogliosi, ne siamo felici. Tu sei entrato in Facebook, ieri ti ho visto, e quindi sono anche diventato da 3-4 giorni sono in Facebook. Ecco, sentirai poi quanto la fame verrà mangiando, ti troverai anche te a mettere la descrizione del tuo pediluvio mattutino, tanta la voglia di raccontare se stessi, però dobbiamo anche salvare la faccia, dire questo ci dispiace. Sentiamo Antonio. Antonio, buongiorno. Buongiorno. Antonio, lei è una persona famosa, nota, in qualche lista di persone degne di memoria? No, al massimo posso essere famoso dai miei clienti perché faccio l'assicuratore, ma non più di quello. Vabbè, già è una celebrità comunque che le darà il pane. Senti, posso permettermi di darti del tu? Ma dammi quello che vuoi, che non okay. È indifferente. Allora, io volevo chiederti questo, siccome sei una persona per me affascinante. Sì, ma adesso non passare immediatamente dal tu alla seduzione, ho capito, dai. Ti sento molto piano. Per fortuna, dimmi. Ecco, allora dicevo, io queste persone che vivono un po' in questo mondo virtuale, che aspirano a diventare famosi, comunque che vogliono apparire in televisione, mi danno un senso di vuoto, di squallore, ho un giudizio molto negativo, però magari mi sbaglio. Anche tu fai parte in qualche modo di questo mondo, però ne fai parte con un titolo diverso, con uno spessore diverso. Quindi il fatto soltanto di apparire in televisione gente farebbe carte false, anche se poi non capiscono niente, non fanno niente di bello, non dicono niente di nuovo e non interessa a nessuno. Però scusami, questo è il pregiudizio basato su basi etiche senz'altro di ognuno che sta fuori da quel giro, dice non sanno fare niente ma sono famosi, entrano nelle liste dei famosi, hanno la notorietà che oggi ha un valore sul mercato. Tu che fai l'assicuratore sai benissimo, se tu dovessi far pagare una polizza a una persona famosa dovresti pretendere molto di più perché è più esposta a rischi per il fatto di essere famosa, quindi ha un valore maggiore sul mercato. Ma mi hai detto niente, scusa, trovare un mercato che ti accetta, ti valuta e ti pesa oltre quello che è il tuo valore, ma chiunque lo vorrebbe, anch'io vorrei qualcuno che mi pagasse solo per il fatto che ne so, che ho gli occhiali, invece bisogna faticare ogni giorno. Lo so che è sbagliato, che non dovrebbe essere così, ma se esiste questa maniera per cui signorine, signorini, persone e personaggi riescono ad avere un discreto e notevole fonte di reddito dal fatto che un mondo, soltanto il fatto che esistano, rende loro omaggio, non posso fargliene a loro una colpa, è il sistema. Prego, Giorgio Dell'Arti. Antonio, senti, io però vorrei dire questo, sono Giorgio Dell'Arti, buongiorno. La gloria è un valore antichissimo. Se non ricordo male dagli studi del liceo, a un certo punto ad Achille apparve in sogno la dea, non mi ricordo bene chi, che gli offriva la possibilità di essere sconosciuto e di vivere una vita grigia ma lunghissima, forse addirittura immortale, oppure di raggiungere la gloria, e Achille scelse la gloria. Chiaro. Quindi il mito dell'essere famosi, cioè che un tempo si chiamava la gloria, è una cosa che gli esseri umani, Homo sapiens, persegue dal tempo dei tempi, sta forse dentro il suo codice genetico, forse è persino un valore selettivo. Quindi scusami Giorgio, il ruolo di persone come te che fanno il catalogo dei viventi è un po' una sorta di vate, di persona che racconta l'epica degli eroi del suo tempo, perché in fondo sai, tornando indietro a ritroso, non metterò mai in dubbio le cose scritte dal grande padre Omero, ma forse probabilmente alla base di tutte queste eroiche vicende c'erano persone che in realtà avevano doti umane lievemente più spiccate del loro prossimo. Non credo che ci sia poi molta differenza, non so, fra Vladimir Luxure e probabilmente il rapporto fra Achille e Patroclo, però entrano nell'epica, oggi sono diventati dei personaggi degni di gloria. Quindi in fondo tu non fai altro che cantare il tuo tempo e gli eroi del tuo tempo. Si parva licet componere magnis, io sarei l'Omero dei nostri tempi, naturalmente lo dico scherzando, però qualche cosa di vero in questo c'è, non tanto nel mio essere Omero, quanto nell'essere quello una specie di Olimpo. Una volta gli dei ammessi all'Olimpo erano solo 12 e potevano portare con sé dei Ganimede o degli amanti o delle amanti, potevano far ascendere, ma comunque restavano 12. Oggi questo Olimpo è molto affollato e c'è molta folla anche sotto alle pendici dell'Olimpo. E il turnover degli amanti è naturalmente più intenso, perché sennò non avrebbero nulla da scrivere i giornali. Giacomo, buongiorno. Buongiorno, ciao Nicoletti, ciao dell'Arti. Buongiorno. Buongiorno. Io vi parlo limitatamente a quello che vorrei fosse il mio campo, ovvero il teatro, in cui la fama forse non è poi così sviluppata, ovvero anche persone che magari in teatro sono bravissime, per chi se ne accosta e chi è amante del teatro vorrebbe vedere più valorizzate, magari si accorge che un certo valore relativo per il teatro è molto più difficile che si imponga. E poi vediamo magari personaggi che hanno un valore artistico zero, che per darsi un tono vanno a teatro a recitare. Ora, senza fare nomi, si è visto gente recitare Pirandello senza alcuna qualità, oppure e quindi diciamo così, c'è anche un certo risvolto della fama, che quando la fama è ingiustificata cerca una certa legittimazione attraverso un risciacquare i panni in Arno, in questo caso scalcando i palcoscenici. Ecco, poi si potrebbe entrare anche nel merito che su Facebook, appena ho messo la mia compagnia piccolissima, amatoriale, composta da ragazzi sotto i 30, mi sono arrivate tipo 800 richieste di amicizia, e secondo me anche tutte queste amicizie, se la fama si conta dal numero di amicizie che uno ha, alla fine non conta più niente. No, quelli saranno amici veri quando tu metterai il cartellone del tuo spettacolo su Facebook e ti compreranno il biglietto e verranno, non è mercato, è fittizio. Può darsi anche che però essendoci poi alla fine così tanta offerta, alla fine uno non sappia più che cosa scegliere, mentre invece una volta c'era quelle poche opzioni che potevi avere, limitatamente al tuo territorio, anche limitatamente al numero di informazioni che potevi avere, e potevi andare sicuramente a scatola chiusa. Ora con tutte queste richieste di partecipazione agli eventi, agli spettacoli, ti ne arrivano così tante che alla fine non riesci più neppure a discernere o a informarti su quante sono le cose veramente interessanti. Vabbè, ti auguro di entrare nel prossimo catalogo di viventi di Giorgio dell'Arti. Giorgio, capiamo un po' i criteri con cui tu hai scritto questa rassegna. Ci si trova davanti a un elenco di umanità e bisogna cominciare a selezionare. Tu come hai cominciato? Quali criteri hai usato all'inizio? Ma intanto bisogna essere presenti nel mio archivio. Io ho un archivio, direi, piuttosto vasto per essere l'archivio. Ma avrei molti di più di 7.247. C'ho tanti stranieri, naturalmente, che non entrano, perché la prima selezione l'ho fatta escludendo gli stranieri e decidendo che sono italiani. La seconda selezione decidendo che devono essere vivi a una certa data che stabilisco. È già una bella speranza stare nel tuo catalogo. E quindi certo, c'è il catalogo dei viventi, bisogna essere vivi, bisogna essere italiani. Sono due condizioni non facili da... non proprio così scontate. Io tento di mettere tutti, francamente, cioè tutti quelli che trovo in archivio. Come si fa a entrare nel mio archivio? Se i giornali parlano di te almeno una volta, hai qualche chance di essere entrato nel mio archivio, perché io e le persone che mi aiutano, e Parrini, che ha scritto il libro con me, bisogna dirlo, aggiorniamo quotidianamente la situazione facendo il nostro giornale interno con pezzi, roba, eccetera. Quindi diciamo, una delle caratteristiche per entrare in questo catalogo viventi non essere stati citati in maniera attiva almeno una volta ai giornali, e sia la prima possibilità. Paolo, buongiorno. Buongiorno Luca, e buongiorno anche al dottor dell'Artiterra. Buongiorno. Buongiorno. Io vorrei dire, forse sono entrato in un momento che potrei essere fuori tema, però riguardo a questi personaggi di cui si parlava prima, vuoti in televisione, tronisti, opinionisti... Ma mica solo quelli, cioè adesso non vogliamo dire che nel catalogo di dell'Arti ci stanno tutti, ci stanno politici, ci stanno addirittura, poi ne parleremo nella seconda parte, anche le persone attive in notizie di cronaca nera, quindi anche i tagliagole, sì, gli assassini, perché anche loro hanno notorietà. Quindi non ci fermiamo soltanto... Più, sarà un motivo in più per approfondire questa sua pubblicazione, questo suo... No? Sì. Sicuramente. Cioè non è che dice il catalogo dei buoni o di quelli che meritano, di quelli che sono noti, hanno avuto notorietà. Certo. Beh, però voglio dire, indubbiamente la televisione, come non c'è bisogno che io lo dica a te, è uno dei mezzi più conosciuti, più diffusi, più potenti in assoluto. E io quello che notavo, come dicevo anche in segreteria prima, non so se è mai stato... in tanti programmi sottolineato, io quello che noto in questi personaggi televisivi, ripeto, perché purtroppo mi ci imbatto sempre. Lei parla di professionisti televisivi, perché in televisione sì, sì, sì, tronisti, quindi questi personaggi, ora senza fare nomi, sennò mi becco qualche querela, però abbiamo capito, è la enorme aggressività, Gianluca. Io noto in queste persone un'aggressività, una... veramente cafonaggine. Sì, ma quello è un mestiere, fa parte del mestiere. Ma io secondo me sì, forse sarà un mestiere. No, fra tanti mestieri televisivi può esserci il conduttore televisivo, ci può essere l'analista, ci può essere la soubrette, ci può essere la velina, ci può essere il porta, qualunque porta, che ne so. Alla fine c'è anche quello che va in televisione a fare l'incazzato cronico, quello che si arrabbia sempre, il reattivo. È un caso umano che si porta in televisione e che ha bisogno di quella categoria. Come... Ma Paolo, per esempio, escluderebbe, se fosse lui, mettiamo, io adesso gli chiedo di fare con me il prossimo catalogo dei viventi. Lei mi chiederebbe di escludere, per esempio, Costantino oppure no. Questi che vanno esclusi o no? No, secondo me sono un esempio classico, voglio dire, di questa aggressività di cui io mi sento particolarmente, è quella cosa alla quale sono più sensibile, alla quale odio, se odio la televisione è proprio per quel mezzo là. Sì, però scusi Paolo, noi odiamo la televisione, ma comunque sì, la televisione ci contamina con la sua esistenza, non si può non tenerne conto. E in una rassegna di persone che comunque hanno una loro esistenza vera, fittizia, giustificata, oggettivamente apprezzabile o detestabile, devono entrare in questa rassegna. Melog 2.0. Tutte le altre candidate avrebbero trovato il compito impossibile, la rivista ne avrebbe sofferto, soprattutto per via della lista. La lista di stilisti, fotografi, direttori, scrittori, modelle, che sono stati tutti trovati da me, nutriti da me, che hanno promesso di seguirmi quando e se mai avessi deciso di lasciare Runway. Se vuoi fare questa vita, certe scelte sono necessarie. Se non volessi fare questa vita? Oh, non essere ridicola, Andrea, tutti vogliono questa vita. Tutti vogliono essere noi. Fatale la frase di Meryl Streep nel Diavolo Veste Prada, in realtà il grande mondo dorato, qui si parlava della direttrice, una grandissima rivista di moda, una sorta di arbitro di tutti gli stili, di tutte le tendenze, di tutti i modi d'essere, dice, ma in realtà sì, noi siamo un mondo, se vuoi vituperato, se vuoi preso in giro, se vuoi maledetto, però tutti vorrebbero essere come noi. Chi è che non vorrebbe entrare nella grande rassegna delle persone famose? Tanto che esistono anche delle maniere improprie, ci si può entrare attraverso le porte principali, ci si può entrare attraverso quelle che nel mondo barbaro erano chiamate le ordalie, le prove crudeli, le prove terribili, le prove terrificanti, ma se uno passava quelle poteva entrare nel circolo degli dèi o appunto nell'annovero dei famosi. È il momento di decretare il vincitore dell'Isola 2008. Due donne dalla storia e dalla vita molto diverse. Vladimir Luxuria, una vita di sofferenze per cercare di imporre la sua personalità, il suo coraggio, una lama nel burro dei pregiudizi italiani. Belén Rodriguez, che non ha mai nascosto quella che è e che ha combattuto anche lei, ha vinto tanti pregiudizi, tantissimi, ma adesso è l'epilogo finale. Dell'Isola 2008 Giorgio Dell'Arti, autore del catalogo dei viventi, 7247 italiani notevoli, aveva probabilmente già previsto che sarebbe diventato il simbolo di tutte le celebrità possibili Vladimir Luxura. Tu hai fatto una voce dettagliatissima, addirittura due colonnini interi su Luxura, con racconti fanciulleschi di quando in sacrestia con un ragazzo un po' più grande di me andava a sistemare i paramenti, l'armadietto del prete, abbiamo trovato una damigiana di vino per la comunione, ce lo siamo bevuto e ci siamo sbronzati. Ecco, tu come riesci a raggiungere questi particolari così personali? Cerchi le persone, le intervisti, le spremi? Qualche volta sì, qualche volta nelle interviste, nelle tante interviste che fanno, il bravo giornalista riesce a far raccontare all'intervistato delle cose interessanti. E in questo caso, per esempio, è andata così, cioè non sono io che ho chiesto a Vladimir Luxuria i particolari sulla sua iniziazione sessuale, è lei stessa che li ha raccontati in un'intervista, e quindi ogni volta che è possibile noi montiamo i virgolettati dello stesso personaggio in un modo che naturalmente sia efficace, in modo tale che lui stesso si racconti. Perché... Non sei d'accordo che in questo particolare esiste una straordinaria capacità nel creare elementi mitici, perché favoriscono poi la formazione dell'eroe dei nostri tempi? Sì. Era stata già brava a darti questi esempi. Certamente, ma diciamo i 7247, almeno una parte dei 7247, sa far bene questo, sa automitizzarsi, perché fa parte della sua professione. Vladimir Luxura, buongiorno. Buongiorno. Senti, ma non ho capito bene, la lama nel burro dei pregiudizi. Se Teo Belem, nella presentazione epica di Simona Ventura della tua vittoria dell'Isola dei Famosi... Ma credo che ognuna di noi due rappresenta una storia diversa. Io perché ho dovuto combattere la mia origine anagrafica e ho fatto della femminilità un terreno di conquista. Belen Rodriguez perché ha dovuto combattere la sua origine geografica. Veniva dall'Argentina, da una situazione molto povera, e molto spesso mi ha raccontato di tutti i suoi problemi di migrante qui in Italia, del problema del permesso di soggiorno, del problema di quando era obbligata a tornarsene in Argentina per rinnovarlo e spendere molti soldi. Quindi ognuno di noi penso che abbia rappresentato una diversità e che abbia posto all'interno, anche sì, di un reality show, un tema sociale diverso. Sei d'accordo, Vladimir, che oggigiorno, al di là dei pregiudizi, delle condanne facili rispetto alla metodologia, la televisione sia un formidabile mezzo per creare delle categorie epiche? Da come l'hai descritta te, voi ormai siete entrati in una sorta di Olimpo. La tua è una storia abbastanza movimentata, di persona che comunque ha sempre modo, sempre maniere, sempre capacità di rendersi evidente. Ma adesso hai avuto il suggello finale, questa dichiarazione dell'avventura sembra quasi un'investitura. Voi rappresentate ormai delle categorie eccelse, Belem, l'emigrante per eccellenza, che attraverso una vita faticosa diventa la lama nel burro del pregiudizio, e te, la persona che combatte contro il suo stato, il suo genere anagrafico iniziale, e ha questa gloria, sei diventato anche l'elemento di frizione fra ideologie, fra politica. Hai notato, figura, sei stata al centro, lo sai benissimo, quanto sui giornali si è parlato del fatto che Luxura sia diventato l'ultimo avamposto di gloria della sinistra italiana, e al contrario è stato detto che infatti le cose non stanno così. Ecco, ti senti, rispetto a qualche mese fa quando ci siamo sentiti a questo microfono e stavi per andare all'isola dove combattere il pregiudizio dei tuoi che dicevano perché ci vai, tradisci la causa, compagna Luxura, non devi andare a fare questa cosa, e oggi sono i primi a dirti hai fatto bene perché hai creato una categoria della civilizzazione e della apertura di pensiero proprio consacrandola all'Isola dei Famosi. Ecco, questo iter come ti ha cambiata? Ma io tendo sempre di più a considerare meritori i comportamenti e non le appartenenze a certe categorie. Credo che la mia vittoria forse abbia sancito un po' questo, cioè essere giudicata per come mi sono comportata e non per l'appartenenza a presunte categorie come può essere quella del transgender o quella politica. Io so che in questo periodo sono molto stimata, molto, molto amata. E sì, è vero, qualcuno mi ha posto in una specie di Olimpo, però ricordo anche un titolo famoso di un film di Visconti che si chiama La caduta degli dèi, nel senso che so bene che molto spesso uno sport nazionale qui in Italia è prima divinizzare qualcuno e poi demonizzarlo. Quindi vivo godendomi questo momento di grande affetto popolare con la consapevolezza che possa finire e che qualcuno possa trovare magari un giorno qualche elemento della mia vita per demonizzarmi. Vabbè, cosa si possono inventare, scusami, oltre a quello che tu hai già detto di te, non credo che possano esistere cose degne di scandalizzare qualcuno, mi sembra strano, no? Ma guarda, io la fama, la popolarità, visto che mi sembra che sia anche emerso un po' questo nella prima parte di questa trasmissione, l'ho raggiunta a mio malgrado all'inizio, perché quando tu sei una persona dalla diversità manifesta, diventi famosa nel tuo piccolo, nel tuo paese di provincia, nel tuo quartiere, tuo malgrado, e quindi la popolarità all'inizio in senso negativa, perché diventi un po' lo zimbello, la persona da insultare, la persona di cui sparlare, diventa quasi come un vestito addosso che ti brucia, un po' come la Medea. Sì, però non è facilissimo fare di necessità virtù, come hai fatto tu. Tante altre persone nelle tue condizioni in realtà vivono nascoste, spaventate, piene di problemi. Tu hai detto, di questo io faccio la mia bandiera, e quindi hai vinto la sfida, tutto sommato. Esatto, io di quel famoso vestito che regalò Medea, che bruciava chi lo indossava, ne ho fatto invece una corazza. E ho deciso di trasformare la mia diversità da qualcosa di cui vergognarsi, invece qualcosa di cui essere inorgoglita. Vladimir, Giorgio Dell'Arti vuole farti una domanda. No, voglio farti, intanto buongiorno, ti saluto, benvenuta, e volevo chiederti questo: tu però volevi diventare famosa. Quando eri bambina, quando eri piccolo, perché per esempio io mi ricordo che da bambino, anzi ci ho scritto pure un romanzo sopra, da bambino volevo diventare famoso, la gloria era qualcosa che mi inebriava, l'idea della gloria. Avevi questo o no? Allora, io ho avuto un periodo in cui sono diventata famosa a mio malgrado, nel piccolo appunto di una realtà cittadina come è stata quella foggiana. A un certo punto della mia vita ho desiderato più che diventare famoso, perché come dice Almodóvar la fama è in odore, una volta che l'hai provato il brivido non è che sia una cosa che ti fa svegliare col sorriso tutti i giorni. Più che provare la fama ho voluto provare a essere stimata, cioè perché io dicevo così non mi sono meritata un disprezzo da parte della gente, voglio meritarmi la stima. Forse questa è stata la motivazione per cui poi ho cercato di perseguire il sogno della celebrità. E adesso, per esempio, scusa, no Giorgio, dobbiamo lasciare la linea per le informazioni del traffico. Vabbè. Ci sentiamo fra un istante con Vladimir Luxura, che riprendiamo dopo le informazioni sul traffico, visto che siamo interrotti, e 800 24 0024, visti dalla fama conquistata, la fama da conquistare e la stima che in realtà poi diventa invidia quando uno assume la conquista dell'Olimpo. Melog 2.0. Ecco, riprendiamo la telefonata che avevamo interrotto con Vladimir Luxura, a cui stava facendo una domanda a Giorgio Dell'Arti, che ha scritto il catalogo di Vivente. Stiamo parlando appunto con Vladimir, che in questo momento è diventato probabilmente la case history della persona che comunque attraverso un'esistenza travagliata riesce a raggiungere le soglie dell'Olimpo della celebrità. Giorgio, stavi domandando? No, stavo domandando questo, al di là appunto del discorso, la stima, che Vladimir ci ha raccontato che è andata cercando la stima soprattutto, e oggi ha l'invidia, dicevo, da un io. Certo momento in poi, no? Però domando brutalmente, allora la prossima volta invece di avere due colonne sul catalogo dei viventi c'hai 10 righe e i giornali smettono di parlare di te o parlano di te con molta meno frequenza, soffri? Ma magari posso aspirare al fatto che tu possa scrivere un nuovo catalogo, il catalogo dei sopravvissuti, e dedicarmi anche lì due colonne. No, diciamo, guarda, io ho provato, diciamo, le ondate di popolarità, quelle ondate in cui la popolarità viene meno. Credo che potrei sopravvivere anche al fatto che potrei dedicarmi ad altro. Sì, sinceramente sì. No, ma soffri? Questa è la domanda vera, e soffri? No, non credo. Non credo di soffrire, perché comunque nella vita si possono avere tante soddisfazioni. Magari trovo un bell'uomo con cui fidanzarmi e potrei godere di quello. Ma questo è un pensiero da saggi, i saggi sono capaci di dire questo, quindi io ti sto domandando in realtà se sei saggio. No, questo sicuramente no. C'è una cosa che secondo me prima che entri in astinenza di celebrità, Vladimir Luxuria, passerà penso almeno qualche settimana, perché devo dire che ne hai fatto una bella ubriacatura in questi ultimi giorni. E io non mi avrei mai immaginato sinceramente non solo di vincere questa edizione. Dai, dai, veramente. Guarda, questo guarda non ci crede nessuno. Assicurami. È riprogrammata per vincere dal primo istante. Ma se io sentivo addirittura quelli che mi avevano sempre sostenuto anche politicamente, che mi inveivano contro. Immaginavo che mi potesse votare. Facevano il tuo gioco quelli. E quelli facevano il tuo gioco, scusa. Oggi essere attaccati da Rifondazione, devo dire che ti crea consenso soltanto. Forse sono stato un po' ingenua, vedi, altro che saggia. Ma soprattutto non immaginavo il successo comunque di una trasmissione del genere. E quanta gente che non aveva mai visto questo reality che quest'anno invece ha visto. Quindi quando sono tornata dopo 70 giorni di isolamento... Quest'anno era succoso e c'era tutto. Tu eri probabilmente l'elemento più inquietante che creava insieme alla Contessa de Blanc, che devo dire ha avuto dei momenti altissimi come esempio di decadenza di nobildonna. Quindi c'era tutto veramente, era un momento epico, romanzesco, degno della nostra epoca. Ma andiamo avanti salutando Vladimir Luxuria, perché non pensate che il libro di Giorgio Dell'Arti, La rassegna dei viventi, rappresenta soltanto coloro che hanno dei meriti per conquistare l'Olimpo degli eroi, ci sono anche coloro che sono gli eroi negativi. Mi trovo qui a Mentana, proprio a due passi dalla villa dove ieri sera alle 23 è successo questo omicidio. Il ragazzo che ha ammazzato i genitori è un trentenne, lavorava come cameriere nel ristorante del padre. L'omicida ha detto che comunque era stato lui ad uccidere il padre e la madre. La madre fatta inginocchiare, poi il padre colto alle spalle. Calati Junku che passa a China, piegati giù che passa la piena, è la regola che Bernardo Provenzano ha imposto a tutti i padrini. Il giorno che questa nostra bella organizzazione diventerà invisibile e non farà più paura, quel giorno noi avremo la revisione dei processi. I giunchi sono i mafiosi e la piena rappresenta le forze dell'ordine, secondo questa antica legge della mafia. Guardati nelle tasche. Abbiamo fatto sentire contemporaneamente un aspirante famoso e dei professionisti dell'isola dei famosi del crimine, i grandi mafiosi, i grandi delinquenti, e Valerio, il ragazzo che dice che si è allenato con un sacco per settimane per fare a pezzi i genitori con il macete, sono le persone probabilmente sono le new entry del catalogo di Giorgio Dell'Arti, perché 500 di questi 7.247 sono criminali. Grandi criminali. Dobbiamo distinguere tra i grandi criminali e i criminali comuni, che pure ci sono, perché abbiamo... Sono dei professionisti, questo sì, Valerio sì, sta facendo di tutto, sarà nel prossimo rassegna. Ci sarà, certo che ci sarà. Cioè, perché... ci stiamo prendendo una responsabilità adesso? No, ci sarà perché, per esempio, sai, nel catalogo adesso Stasi c'è, Sollecito c'è, e non sono neanche, sono ancora da condannare. Non sono nemmeno giudicati. Non sono neanche giudicati, quindi sono degli innocenti, però diciamo hanno occupato la nostra immaginazione attraverso i giornali talmente a lungo che li abbiamo messi. Però noi abbiamo fatto uno sforzo particolare sulla criminalità organizzata, mafiosi, ndranghetisti e camorristi. Intanto c'è una sensibilità nuova rispetto a questo tipo di personaggi dovuta al grande successo del libro di Saviano, il quale non ha l'indice dei nomi. Allora io ho detto a Paola Bellone, che è la ragazza, il magistrato, il molto giovane che ha scritto queste voci e ci ha aiutato nella ricerca in modo fondamentale, di cominciare dall'indice dei nomi di Saviano e di vedere quali di questi casalesi fossero sopravvissuti e quindi ancora biografabili. Da lì è partita tutta una ricerca nelle procure di tutta Italia sulle sentenze e sui verbali di interrogatorio. Ma vedi come si incrocia un meccanismo complicato, complesso e assolutamente nuovo e contemporaneo nella creazione della fama. I grandi fatti di cronaca si incrociano con i database dei giornalisti che seguono questi fatti, si incrociano con la letteratura e con il romanzo storico, che Saviano scrive qualcosa, racconta al suo tempo attraverso il romanzo. Non si è mai parlato di Camorra nel mondo come quando è diventato fatto romanzesco. Riina e Provenzano, personaggi di cronaca, crudelissimi capi mafiosi, diventano fiction televisiva. Tutto messo assieme crea le premesse perché possano entrare nel catalogo delle persone che esistono. Ma loro fanno parte del nostro Olimpo, del nostro mito, sia pure come personaggi negativi. Ma ti dirò di più, che la storia d'Italia non si capisce senza tenere conto delle pressioni della malavita. Dalle biografie, semplicemente dalle biografie, si capisce perfettamente la connivenza di queste organizzazioni con la magistratura e con la classe politica. Ho una domanda velocissima, siamo proprio in conclusione e c'è una persona che vorrei far parlare. I politici, ecco, quante pressioni hai avuto, quante persone dopo l'uscita del primo libro ti hanno fatto capire che avrebbero avuto piacere, visto il grande desiderio di apparenza e di frequentare i mezzi di comunicazione di massa della nostra classe politica, di entrare in questo libro? Ma c'è un politico che, benché fosse stato trattato benissimo, si è arrabbiato molto perché io non ho messo tutte le lauree che aveva avuto nel mondo. E questo lo ha ritenuto un insulto, soprattutto perché aveva l'impressione che D'Alema invece avesse avuto un trattamento migliore del suo. Invece non è quello che non è vero, ma questo dimostra solo che ognuno di noi, quando legge la propria biografia scritta da un altro, tende a non riconoscersi. Abbiamo al telefono il professor Edoardo Novelli. Novelli, buongiorno. Buongiorno a voi. Che è docente di comunicazione politica all'Università di Roma 3. Novelli, velocemente, siamo quasi in conclusione, però vorremmo capire, in questo momento, questi ultimi anni, i politici hanno scoperto questo incrocio fantastico dei mezzi di comunicazione di massa che nel piccolo, nel grande, negli esempi più eccelsi, negli esempi meno conosciuti, comunque danno forza e consistenza all'immagine. Ma è sempre stato così? Come facevano prima? Considerando dall'inizio della nostra Repubblica, dagli anni dei padri della Costituzione, come facevano prima che scoprissero questo grande meccanismo di visibilità? Come facevano a rendersi noti? Beh, i criteri, diciamo, di selezione per decretare la popolarità erano assolutamente diversi. I politici dell'epoca basavano tutto sull'aspetto politico, sulle loro competenze a guidare un'organizzazione politica, a interpretare gli umori della base, gli umori del proprio elettorato. Adesso è stata sostituita principalmente la politica con il corpo. Ora è diventata la dimensione personale, la dimensione centrale e che ha preso il posto, diciamo che gli stessi politici hanno preso il posto ai partiti. Prima i politici erano comunque si potrebbe dire quasi degli impiegati di partito, erano di coloro che svolgevano una funzione sociale a nome di un'ideologia, a nome di un partito. Adesso sempre di più si volgono in proprio, ci sono addirittura i partiti che non stanno scomparendo e si vota il leader, si vota il candidato per la storia che ha, per le vicende, per la famiglia. Non c'era la percezione, Novelli, parlo dagli anni 60, gli anni 70, che entrare nelle cronache ci si entrava soltanto quando si era protagonisti o lambiti da grandi scandali, c'era quasi paura di entrare. Per un politico dell'epoca finire nella cronaca era una disgrazia, assolutamente, si tenevano molto lontano. Nel momento in cui arriva la televisione e la televisione inizia a tentare di spettacolarizzare, i politici se ne tengono ben lontano. Quello che doveva essere conosciuta era la dimensione pubblica dell'uomo politico. Giorgio Dell'Arti deve farle una domanda. No, le volevo domandare questo. Io una volta ho detto in una conferenza, in una presentazione, ho fatto questa osservazione che ha suscitato molto stupore, e cioè che bisognerebbe, per capire il nostro tempo, bisognerebbe prendere una foto del Parlamento del 1965, per esempio, e guardare i parlamentari, dove per esempio stava seduto un signore che si chiamava Lupis, di celebre bruttezza, o per esempio tutte le donne della Democrazia Cristiana dell'epoca, di cui anche Bernabei poi con me si è lamentato del fatto fossero poco avvenenti, no? la Martini, ma anche la Anselmi, eccetera. Sì, ma anche Nilde Iotti è considerata donna di temperamento, E mettendo vicino questa foto di classe dei parlamentari del 65 con i parlamentari di adesso, i parlamentari di adesso sono bellissimi. Certo. Sono troppo belli per essere presi sul serio. Questo, tra l'altro, è quello che io penso nel mio profondo. Che ne dice? Oggi nessun pelato, nessun ciccione, nessun obeso potrebbe diventare presidente degli Stati Uniti. E non è così, Roosevelt, che era paralizzato ed era su una sedia a rotelle, oggi probabilmente non potrebbe più diventare presidente degli Stati Uniti, perché l'America, in una dimensione di videocrazia dove siamo adesso, nella quale siamo, non accetterebbe di essere rappresentata da una persona fisicamente meno mata. Ma le dirò di più: se lei piglia un libro, che sicuramente del quale ha conoscenza, che sono Le navicelle parlamentari, certo, cioè il libro in cui viene, ad ogni legislatura viene pubblicata la biografia di tutti i parlamentari con la fotografia, e se va a vedere le fotografie, questo è stato fatto, si vede che le fotografie che il parlamentare dava di se stesso, perché è un atto volontario, no? Quindi la foto la sceglieva lui, sì, nel 45, nel 46, 47, sono tutte austere, sono tutte serie, alcune addirittura si rifanno ancora degli stilemi molto antichi, guardano lontano in una mano appoggiata su un libro, cioè non guardano mai in mano. E oggi come sono, professor Novelli? Oggi sorridono, oggi ci guardano negli occhi, sono dei primissimi piani, sono foto pubblicitarie, sono foto seduttive. A metà degli anni Ottanta la politica inizia a sorridere. Se noi guardiamo i manifesti della politica, quelli di propaganda eccetera, sono tutti seduttivi, tutti ci guardano stretto negli occhi, sono dei primissimi piani, molto ammiccanti, il sorriso è comparso. Una volta la politica più era lontana e più era austera, più era autorevole, la lontananza c'era, si diceva la grammatica della distanza, più era distante più era considerata. Oggi, professor Novelli, lei ci dà lo spunto a un'altra meravigliosa trasmissione, quindi dobbiamo lasciarci noi perché abbiamo finito, ma è l'avvento di Photoshop come elemento fondamentale nella creazione della figura di un politico, mi seduce troppo, e torneremo su questo argomento. Grazie Giorgio Dell'Arti, grazie a quelli che hanno partecipato, ci sentiamo domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828-1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.